Per mirar Policleto a prova fiso, con gli altri che ebbe fama di quell'arte mill'anni, non vedria la minor parte della beltà che m'ave il cor conquiso. Ma certo il mio Simon fu in paradiso, onde questa gentil donna si parte, ivi la vide e la ritrasse in carta. Per far fede quaggiù del suo bel viso, l'opera fu ben di quelle che nel cielo si ponno immaginar, non qui tra noi, ove le membra fanno l'alma vero. Cortesia fe, né la potea far poi, che fu disceso a provar caldo e gelo, e del mortal sentirono gli occhi suoi.